puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Gerani, mettiamo gerani sui Balcani che tengono lontane le zanzare. Beviamo stasera, beviamo varechina, prendiamo l'autobomba e andiamo in disco. A Zanzibar, a Zanzibar. C'è il bar di mio fratello che si fa le perestroiche e beve solo vodka di lampione. Iniziamo subito con che cosa? Con una cosa mitica, l'incontro barra scontro, anzi no, l'incontro oggi, il summit internazionale tra la signora Annarella e il mitico Schulz, presidente del Parlamento europeo. Tutto questo in un bar di Roma. Sentite. La prossima volta che ti dice la parola, io la sto per tutti. Ma ha capito, sì? Io capisco, sì. Ha capito che c'è da dire? No, dico piano, che così c'ho. Ciao, sai le parole, come te dico io ce le devi dire. Ciao bella. Mettiamo gerani sui Balcani. Ha incontrato Schulz in un bar, ha detto la prossima volta che quel Berlusconi ti dà del capo, sai che gli devi dire? Vaffanculo. Così ha detto piano piano, capito? Pa, ci sei, no? Parenzo? Eccomi, certo che ci sono, ci sono sempre, ti ascoltavo. Sì, sì, ci sei sempre, naturalmente. Ma abbiamo iniziato da pochi minuti, no? Sì, sì, sì, da pochi istanti, non c'è problema, per carità. Potevi pure aspettare altri 10, un quarto, 10 minuti, un quarto d'ora. Potevi aspettare 10 minuti, un quarto d'ora, che problema c'è? No, ma tu sembra fare polemiche, sempre polemiche. Sì, sì, sempre polemiche. Mentana ieri sera dalla parte di Formigli contro la Fiat, sapete, dalla sentenza di risarcimento, risette. Tu sei sempre dalla parte, comunque dalla parte di Mentana, qualsiasi cosa si dice. Dalla parte di chi mi dà da mangiare? Ecco, che non c'entra niente Mentana in questo caso, perché non è Mentana che ti dà da mangiare, ma in questo caso sei comunque dalla parte di Mentana, non si capisce perché. Ho sentito cosa ha detto. Sì, sì, e sei d'accordo, naturalmente. Comunque, a prescindere. Dopo te lo spinto, sì, sì, va bene, va bene. La Fiat non faccia la verginella. E tutto questo sarebbe tollerabile se la Fiat fosse sempre stata estranea ai rapporti inconfessabili con i giornalisti, se non avesse mai invitato i giornalisti a, che so, a viaggi esotici in lontani saloni automobilistici o a gare automobilistiche in giro per il mondo di Formula 1 o non soltanto. O se non avesse mai concesso, incomodato, in prestito illimitato, in prova senza scadenza le sue automobili a compiacenti giornalisti di ogni ordine e grado. Ma siccome la RAI ha sempre fatto, la Fiat ha sempre fatto tutto questo rispetto ai giornalisti della RAI, come in questo caso, ma anche in altri campi e in altri tipi di giornalismo scritto, televisivo o radiofonico, sa benissimo che non può adesso fare la verginella che è stata in qualche modo fatta oggetto di attenzioni moleste dalla mala informazione. Poi ha anche detto che Formigli paga le tasse in Italia, non come Marchionne che le paga in Svizzera. Devo dire una cosa, cosa c'entri tutto questo, dove paga le tasse Marchionne e la Fiat, che cosa ha fatto negli anni, le prebende ai giornalisti, con la vicenda nel merito? Francamente non lo capisco. Non c'entra, diciamo, io con grandissimo rispetto nei confronti di Mentana, no, non c'entra, carità, non assolutamente nulla, zero, il tema, zero, il tema più forte invece zero, è quello... zero, c'entra zero, dimmi la verità, confessalo, dimmi, ammettilo, c'entra zero. No, beh, c'entra moltissimo. C'entra moltissimo, beh, te pareva. Il signor Marchionne. Ma la sentenza non l'ha scritta Marchionne, l'hanno scritta dei giudici a Torino, non l'ha scritta il signor Marchionne la sentenza, l'ha scritta, l'hanno scritta dei giudici a Torino. Non c'è nulla di male nel ricordare che Marchionne paga le tasse in Svizzera. Ma cosa c'entra con la vicenda Formigli? Non c'entra nulla. Nel merito è assolutamente sproporzionata. Vabbè, d'accordo, entra nel merito. Se è sproporzionata, secondo quale criterio lo dici che è sproporzionata? Hai letto le carte, sei un giudice? No, sei un perito, secondo la cifra di questa è sproporzionata. Abbiamo deciso che è sproporzionata. L'hai deciso tu. Definitivamente. Quale sarà il giornalista che avrà paura di fare una grande inchiesta? Questo accadeva anche prima, accadeva anche prima, non ti preoccupare, accadeva anche prima. Bersani e le croste di formaggio. Ukulele. Ukulele. Tra le steppe del Mar Io ho imparato in queste settimane che per la prima volta ci sono dei centri commerciali che vendono croste di formaggio parmigiano reggiano o grana ben impacchettate per mettersi alla dimensione della tasca dei pensionati. Non è tutta l'Italia questa, ma c'è anche questa. Si può fare un po' di più, cioè il pensionato che si compra va a comprarsi la crosta di formaggio. Beh, adesso francamente io non lo so, ci saranno dei supermercati frequentati da Bersani dove si sono adattati, dice Bersani, alla nuova povertà e hanno messo delle croste di formaggio al posto dei pezzi interi di parmigiano. Sarà anche così, come dice Bersani, però francamente mi sembra un po' difficile. Primo però grande anche ospite, sì. Anche le croste di formaggio, sì. Alle volte le brave casalinghe lo comprano perché le fanno un brodo, capito? Quindi non è per ragioni di povertà. Ma sì, ma cioè c'era anche prima, secondo me, c'era anche 2 anni fa, 3 anni fa, quando c'era meno crisi. Bah, hai visto? Primo grande ospite della Zanzara, primo grande ospite della Zanzara, caro Parenzo, che si trova a Roma, vicino nei dintorni della Camera dei Deputati, è con noi il senatore Giuseppe Ciarrapico. Buonasera. Eccomi a voi. Come sta, senatore? Molto bene, benissimo. Beh, in grande forma, la sento una voce squillante. Come sempre. A lei 77, quanti sono? Gli fanno un baffo? 7-8 gli fanno un baffo. 7-8, è meno male. È un ardito. Beh sì, ardito sicuramente, si sente un po' ardito, no? No, che ardito, mi sento a 78 anni in piena forma, tutto qua. Tutto qua. Cioè, un sincero democratico repubblicano. Benissimo. Vabbè, no, non è un sincero democratico perché è nelle istituzioni repubblicane, poi il fatto che, che si proclami fascista è un altro discorso, che c'è. Come si conciliano le due cose, poi quello è tutto da vedere, naturalmente. Esatto. Ma è sempre stato così. Senta, ma era meglio la Repubblica di Salò, signor Ciarrapico. Ma no. di che cosa? Della Repubblica attuale? Della Repubblica italiana. La Repubblica di Salò non esiste, esiste la Repubblica Sociale Italiana. La RSI, appunto. Sì, no, perché appunto. Bisogna stare attenti con i termini quando. Ma era certo. Meglio la Repubblica Sociale Italiana di questo governo di tecnici, no? Ma sai, un governo di tecnici è quello che forse era il grande cambiamento fatto quando andò al potere il fascismo, no? Cioè? Si passò da un sistema di partiti che non andavano d'accordo tra di loro a un sistema delle corporazioni. Erano appunto tecnici, quindi non c'è niente di nuovo. Ecco. Cioè, non c'è di nuovo. No, in che senso non c'è niente di nuovo? Scusi, c'è di nuovo. I tecnici sono il frutto di trasformazione della democrazia che non funzionava, che causò il fascismo. Sì. E ha un sistema, quello delle corporazioni, che erano i tecnici. Sì. Non hanno scoperto niente di nuovo. Niente, insomma, l'ha fatto anche il fascismo, dice lei. Come il fascismo? La famosa camera dei fasci e delle corporazioni, sì. Era l'esaltazione di un tecnicismo. Vabbè, d'altra parte i tecnici ci sono già stati, ci sono già stati in Italia, altre fasi, però pare che Berlusconi si sia innamorato di Monti, da quello che si legge, senatore Ciarrapico. Ma Monti è una grande rivelazione, no? Beh, e Monti ha potuto fare cose che se l'avesse fatte Berlusconi sarebbe successa. Ah, su questo non c'è dubbio. Dunque, lei è che è stato sempre critico con Monti, adesso vede con favore il governo del professore? No, non lo vedo con favore particolare. Quando non c'è politica, dico che evidentemente c'è qualcosa che manca nella democrazia. Sì. Ma io nella democrazia non è che ci ho mai molto creduto. Ah, beh, su questo ecco, non questo c'è dubbio. Cioè, lei dice se ne potrebbe fare a meno della democrazia? No, non dico che si potrebbe fare a meno della democrazia, mi riporta a quello che diceva Churchill. Sarà un sistema difettoso, ma è l'unico che conosciamo. E perché lei dice non ci ha creduto mai fino in fondo? Ma sa, nelle camere del potere assistere ai giochi della democrazia ore e ore. Sì. A parlare del nulla o a parlargli addosso, parlarsi addosso, una noia. Per giustificare la propria funzione parlamentare mi avvilisce un po'. È una noia mortale stare al Senato. Quel dittatore lì, no, una noia mortale no, mai, perché io credo nel lavoro che faccio, cerco di farlo nel migliore dei modi. Sì. E poi a volte c'è da prendere la parola, come l'ho dovuta prendere l'altro ieri, perché era veramente vergognoso quello che stava succedendo. Che è successo l'altro ieri? Ma come che è successo? Abbiamo consegnato noi agli indiani 2 marò, siamo andati all'alto mare dove stavamo, ci siamo accostati al molo per consegnare i 2 marò. E invece che avremmo dovuto fare? Sparare? No, sparare, restare in alto mare e portarli in Italia. Cioè abbiamo sbagliato tutto là? Abbiamo calato le braghe? Penso di sì, abbiamo calato le braghe, non c'è dubbio, ma le avevamo calate pure nello stesso giorno quando continuiamo a insistere con un mezzo lince, sì, quando tutti i ministri che si sono succeduti alla difesa ci hanno detto che il lince indubbiamente era un mezzo inadeguato e che sarebbe arrivato in Freccia. Mm. In Freccia non sono mai arrivati, i nostri affogano in 40 centimetri d'acqua con i lince. Mm. Vabbè, se ci fossero, lei dice, se ci fosse un altro governo, un altro sistema di governo, no? E ci fosse lui? Io dico che questa è la situazione dinanzi alla quale, sì, ci troviamo, quindi sa, quando parliamo di missioni di pace, sì, e continuiamo ad andare in Libano, con una forza enorme che non serve più perché in Libano la guerra non c'è più. Sì, beh, non c'è dubbio su questo. Senta, ma allora Berlusconi innamorato di Monti, che insomma lo vuole trascinare dalla sua parte, sì, per noi potrebbe restare anche altri due anni, come lo vede sto Berlusconi? Ha perso un po' di mordente, il Berlusconi da battaglia che conosce, no, lei, che lei esalta, no, sempre? No, nella maniera più assoluta. Assolutamente. Io no, ho l'abitudine di battere il collegio elettorale che mi ha eletto, le 5 province dell'Arno. Sì. E le assicuro che ancora un solo nome tira, quello di Berlusconi. Ah, tira un solo nome? Tira solo, ecco. Io ho annunciato più volte che Berlusconi attraverserà le province di Frosinone e di Latina. Sì. E al più presto, durante il turno delle amministrative. E che va a fare? È stato accolto con entusiasmo il numero. Sì. Ancora c'è grande entusiasmo, dice lei. L'unico nome che l'unico nome che tira è quello. Vabbè, ci risentiamo tra qualche istante dopo il traffico. Un attimo solo. Eccoci qui, 18:48, 800-24-0024, con noi Giuseppe Ciarrapico, senatore del PDL. Senta Ciarrapico, ma lei non sente... Sì, sempre senatore fascista del PDL. Sì, però. Ma infatti questo volevo chiedere a Ciarrapico. Ma lei non sente un po' una contraddizione col fatto di essere senatore e nello stesso tempo fascista? No, assolutamente. No. Il passato... Nella storia, non io, ma l'ha detto Indro Montanelli, è passato. Non ammette break, sì, e quindi non ci sono interruzioni, il passato è quello che era. E mio papà si divertiva a dirmi che io ero una vittima del fascismo perché a 4 anni e mezzo mia zia mi aveva portato a sfilare a Via dell'Impero. Sì. Il papà scherzava e diceva che ero una vittima del fascismo. Appunto. Io ne sono orgoglioso di quell'esperienza. Se gli piace così. E vabbè, non la rinnega. Se gli piace così. Non la rinnega, che vogliamo esiste fare? Esiste anche il pentimento. Ma, cioè, non si può, ma non si può riproporre quell'esperienza, esiste anche, no? Nella maniera più assoluta, io vengo dalla scuola di Almirante, che diceva non rinnegare e non restaurare. Non rinnegare e non restaurare. Beh, magari alle volte qualche piccolo senso di colpa rispetto alle malefatte di quel regime non farebbe niente male, caro Ciarrapico, comunque. Se malefatte c'è molto da ragionarci su. Qualche malefatta ci sarà, una ci sarà stata, una malefatta, una la potrà pure ammettere lei, no, senatore? Sì, le leggi razziali. Ah, questa è l'unica, ma non solo, diciamo. L'unica malefatta è stata questa. Per il resto forse c'è stato un provincialismo. Sì. E raccontiamo sempre che se Mussolini fosse avesse preso l'elenco telefonico di New York non avrebbe mai dichiarato la guerra all'America. Bravo talento! Chi è? Chi è? Pubblico fan che gira. Gente che acclama. Scusi, ma c'era una piccola cosa che si chiama. Tutti con te. C'era una piccola cosa che si chiama dittatura, senatore Ciarrapico. Una piccola, esatto, cosa, una piccolissima cosa che si chiama, sì, dittatura. Però. Ma Minculpop, ad esempio, Ciarrapico. Mancanza di libertà, mancanza, no, di libertà o no? Renzo De Felice dice, lui se ne intende come, sì, storico, che fu una grande dittatura, quella del consenso. C'era consenso, lei dice, quando c'è consenso va bene tutto. Era un regime. Che cos'è? Era, senta, un regime. Ciarrapico, ma io voglio che ha visto come è stato la storia secondo Ciarrapico. Ha visto come è stato, stai zitto un attimo, ha visto come è stato crocifisso in questi giorni il suo collega senatore Giovanardi per la questione del bacio gay? Ma sul bacio gay io già una volta con voi in trasmissione ho parlato di quello che penso con i gay. E quello che penso dei gay. Ma gli fanno schifo, su, gli fanno schifo, diciamo. Nulla. No, preferisco le donne. C'ha un odio, un bell'odio forte ce l'ha, non ce l'ha, c'ha, odia un po' i gay, me lo dico. Non me ne frega niente, li vedo una volta all'anno quando sfilano per Roma. Vabbè, ogni tanto si vedono anche a Gigi. Danno fastidio. Me le danno fastidio molto, Molto, sì. Ma il bacio collettivo che c'è stato a Modena, il bacio, se lei dovesse vedere due gay che si baciano, a che pensa? Che mi fanno schifo. Che le fanno schifo e basta. Non è che li farebbe arrestare, non è che ci vorrebbe una legge per arrestarli, no? Perché non ne vale la pena. Come non ne vale la pena? Che non significa? La pena perché non ne vale la pena, dice lei? Il fascismo li mandava a Carbonia, ma oggi non varrebbe nemmeno più la pena mandarli a Carbonia. Ah, Carbonia, no, Carbonia. di mandare. Che è una delle cose, per esempio, di cui uno si potrebbe pentire, che mandavano i gay a Carbonia. Appunto. O no? Perché a Carbonia stavano benissimo, scavavano. Ma che dice? Ma come scavavano? Ma che dico? Ma c'è Rapico, su. Ma sta scherzando. Ma andatela a prendere con un'ambulanza subito. C'è Rapico, ma andavano a Carbonia a spalare, cioè erano ma al confine. Ma come ti permette? Erano al confino, cioè, senatore. O senta, no? Io le mie opinioni sui gay, ognuno si ritiene le sue, no? Sì, no, ma perché? Perché non c'era un paese dove si salta quando vede la farfallina sull'inguine di quella bellissima figliola. Sì. E poi si preoccupa che chiunque non osi nemmeno attaccare i gay, per carità. No, no, è perché bisogna attaccarli, scusi. No, dico, o vale la farfallina sull'inguine, sì, oppure vanno bene i gay. Beh, possono andare bene tutte e due, per esempio. No. Dai, io mi sento un po' femminista, preferisco la farfallina. Lei preferisce la farfallina, su questo non c'era dubbio. Però per esempio in Inghilterra pensano di fare i matrimoni gay, c'è stato questo bacio collettivo davanti alla casa di Giovanna Hardy, l'ha vista quelle immagini straordinarie? No, non l'ho visto. Di quel bacio collettivo, il bacio collettivo. No, vabbè, non l'ho visto. Niente, vabbè. Senta, ma comunque, ha saputo l'altra storia di quel signore che si chiama Vattani, no? Lo conosce il signor Vattani, il console italiano? Quello sì, che ha fatto il saluto romano e ha rivendicato la validità della Repubblica Sociale Italiana. Più o meno nelle canzoni è così, e tra l'altro è stato richiamato da Osaka e dovrà subire un processo. Che ne pensa lei? Assurdo. Questo in nome della libertà, d'opinione. È assurdo, dice lei? Mi pare di sì. Sai che però lei conosce la Costituzione. Però no? Sai, Parenzo, che io su questo devo dirti la verità. Non... Ma lei sa, c'era dico che esiste una legge, che la legge Mancino, ad esempio, conosce, no? È un deputato, dovrebbe saperlo, esiste una legge. Vabbè, ma mica è stato accusato di aver violato la legge. Mica è stato accusato. Legge Mancino. Sì, però Vattani non è stato accusato di aver violato la legge Mancino, È stato accusato, peraltro non da un tribunale, ma dal Ministero degli Esteri, poi ci sarà un processo, di aver tenuto un comportamento poco ortodosso, diciamo, poco rispondente alle funzioni di un diplomatico. Ma qual è l'ortodosso? Sì, Per cui lei, per esempio, non avrebbe problemi a fare il saluto romano? Lo faccio normalmente. E dove lo fa? Come lo fa certo, non lo faccio mica così, lo ritengo una cosa molto seria. L'ultimo molto lo feci durante i funerali di Edda Mussolini. E quando vado a Pretappio, ci vado una volta all'anno, faccio il saluto romano. Fa il saluto romano tranquillamente. Dunque, un console italiano può tranquillamente in un concerto fare il saluto romano. Ma non era il console che in funzione di console, stava lì in funzione privato. Ma uno è sempre console. Ma è un funzionario dello Stato che ha giurato sulla Repubblica Italiana, Gianapico. Io pure posso giurare sulla Repubblica Italiana, che io ho occupato contro la Repubblica. Ma se voi eravate, scusi Gianapico, perché voi eravate tra quelli che urlavate in piazza il 25 aprile è nata una puttana, l'hanno chiamata Repubblica Italiana, voi del MIS questo cantavate, questo calma, io non l'ho mai cantato, parla per te. Io non sono cretino, quindi non l'ho mai cantato. Senta, ma lei pensa di cavarsela di cavarsela da quelle accuse pesantissime, le ultime che ha avuto di avere insieme a suo figlio per quella truffa su di 30 milioni per i contributi? Io non ho fatto nessuna truffa, sono soltanto indagato e non sono incriminato. Indagato, pensa di cavarsela dunque tranquillamente, non ha fatto nessuna truffa. Nessuna truffa, i miei giornali escono regolarmente, ringraziando Dio, sono i più letti nel Lazio. Sì, vabbè, questo non significa che sono i più letti, che non si sia verificato quello che suppongono i giudici, però vedremo naturalmente in tribunale. Ma insomma, lei però ha 77 anni ancora al Senato con queste idee, che ci sta a fare? 78, scusi, ha ragione. Pronto? Mi sente? Mi sì, sì, sì. L'inno del PDL, Ciarapico, le piace questo inno del PDL nuovo? L'ha sentito? L'ha canticchiato? No, non l'ho sentito. Non l'ha sentito? Una fregnaccia, dice lei. No, io sono rimasto dal sole che sorge, libero e giocondo. Ah, beh, sarebbe meglio quello, no? Perché non mettono quello invece della... Peggio mi sento. No, canto volentieri Fratelli d'Italia. Ah, volentieri Fratelli d'Italia, sì. La canticchia pure, come fa? Fratelli d'Italia. No, mi metto la mano sul cuore quando sento l'inno nazionale. E io l'abbraccio fortissimo. A presto. A presto. A presto. Bene, siamo qui di nuovo in diretta, caro Parenzo, di nuovo in diretta alle 19:17 su Radio 24, Il Sole 24, dove sei? Dove ti trovi? Beh, intanto ho appena finito, adesso sto aspettando la signora Maiolo, questo convegno sì. a quale ho partecipato con sì. Tiziana Maiolo e il signor Cicchitto. Ma uno potrebbe dire anche chi se ne frega, perché ci stai comunicando a sì, quale convegno hai partecipato? Me lo hai chiesto? No, dove sei? Volevo sapere in che zona della capitale sei. A Roma. davanti alla sede di FLI. Davanti alla sede di con l'ex senatrice Dato, Cinzia Dato del partito già del partito, sì. già del Partito Democratico, no? Saluta l'ex i telespettatori, allora, saluta, scusa, Parenzo, scusa un attimo, senza fare casino. Saluta per cominciare i telespettatori di TGCOM 24 che sono da questo momento in collegamento saluto con noi. Gli amici del TGCOM 24, bene. La redazione, il direttore, va bene. Tutte le basta. E Silvio e la signora Cavo, la signora Ilaria sì, Cavo. Fermati. Vabbè. Stai calmo, non fare la tua solita sviolinata, la tua solita slinguata. No, è un'ottima rete questa, sai, volevo dirtelo. Sì, va benissimo. Partiamo con i titoli del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Liberalizzazione dai taxi alle farmacie, troppi cedimenti alle lobby, il terzo polo si ribella, il nostro voto non è scontato. Monti, alcune modifiche non le accoglieremo, pareggio di bilancio l'anno prossimo, senza altre manovre, pace fatta con Bill Gates. Bersani a Palazzo Chigi vada a parlare di occupazione, poi avverte, se salta il tavolo sul lavoro si rischia liberi tutti. Dopo le polemiche riprende la trattativa sul lavoro, la Fornero, la riforma per il bene del paese, non per i partiti o il governo. Zona euro in recessione, prevede la Commissione, per l'Italia andrà peggio, giù il PIL sull'inflazione, Draghi l'essenziale è la riforma del lavoro. Dopo i redditi dei ministri resi noti gli stipendi dei manager pubblici, prima della lista il capo della polizia Manganelli con 620.000 euro. Storica sentenza della Corte europea di Strasburgo che ha condannato l'Italia per i respingimenti in Libia degli immigrati, risarcimenti per le vittime che hanno fatto ricorso. Eccoci qui. Beh, insomma, abbiamo avuto una nuova proposta per l'inno del PDL, prima da parte del senatore Ciarrapico, in diretta con noi alla Zanzara. Il senatore Ciarrapico ha proposto l'inno a Roma, se non sbaglio, l'inno a Roma un po' datato. Leggermente nostalgico. Leggermente ventennio, direi io, ventennio. Dove siamo? Annarella, buonasera. Ma Ciarrapico che se ne messo dalla faccia della terra. E che ha fatto Ciarrapico? È un ladro. Come un ladro? Vabbè. Capirai, ma non va di fabbri soldi. Ha qualche condannetta, così, qualche condannino. Sì, così, all'acqua di rosa. Allora, come sta Annarella? Mi hanno detto io che. Io sto bene, sono stata un mese male. Che è successo? Perché mi sono sentita male là a Palazzo Chigi, mi hanno subito i dottori, mi hanno visitato, mi hanno fatto tutto. Lei è una privilegiata, allora, non è andata agli ospedali normali, si è fatta curare alla Camera dei Deputati, a Palazzo Chigi. Ma la volevano portare pure al coso, come si chiama? Dove la volevano portare? All'ospedale non si sono voluta andare. Ha detto meglio farsi curare qui dove si fanno curare i deputati. Sì. Ma che ha fatto? Che si è sentita male dove? Al cuore, che ha fatto? Al cuore, ma perché lei sta sempre lì davanti alla camera a rompere le scatole a tutti? No, io ne rompo le scatole, se dico quello che penso. Se stanno oddio, aspetta un attimo. Che è successo? Che hai fatto? Cioè, Annarella? Che ha fatto Annarella? Annarella? Se vuoi. Lo sa perché sto là? Perché sta là? Perché devo chiappare tutti questi ladroni. Ha capito? E poi non mandare via tutti quei vecchiacci e metterci i ragazzi nuovi. Hai capito? Annarella, una cosa. Dimmi. Io ho parlato con Schulz. Oh, lo so che oggi hai parlato con Schulz, certo. Allora. Tu ha detto, ma l'avete sentito su Repubblica, eh? Sì, sentiamo, mandiamo un po' questa cosa di Repubblica. Aspetta, già è uscita, non si sente poco, adesso fra poco ce la spieghi, eh. L'incontro, il vertice Schulz-Annarella, una cosa pazzesca. Oggi, come un vertice, no? Un vertice tra ministri, un vertice tra capi di governo. L'incontro in una gelata, dov'era? Da Giolitti, dove stava? No, da Giolitti, proprio lì al Parlamento, all'albergo che sta lì alla piazza. Alla piazza? È stato il cornuto dell'avvocato di Berlusconi. Chi è? Come che c'entra il cornuto dell'avvocato di Berlusconi? No, io ho messo le mani in croce, ho detto dovessi stare in galera insieme a lui. Ma chi? Chi deve stare in galera? Chi? Ma chi? Come si chiama? Ma chi è? Brutto. Ma chi? Ghedini? Dai! Scappa sempre. Ah, qui scappa sempre. Beh, certo, sempre. Certo, quando ti vede Annarella che deve fare? Deve stare. Tanto io se vado davanti gli occhi. Scappano tutti. L'incontro con Schulz. Aspetta un attimo, Annarella, ti faccio sentire, senti. La prossima volta che ti vince qua la parola, ti racconto il tutto. Ma ha capito, quindi? Io cambio la frase, via. Ehi, ho fatto la guerra. Ha capito che c'è da dire, Berlusconi? No, dico piano, che così c'ho. Ce lo sai dire, le parole, come te dico io ce le devi dire. Ciao, bella. Hai capito, Annarella? Che hai detto che non si è capito niente? Ricostruisci un po', ti sei avvicinato a Schulz, che è il presidente del Parlamento Europeo, quello cui Berlusconi diede del capo? Lo sapevo. E allora? E io sono informata di tutto. No, lo so, e allora che gli hai detto? Allora, sono andata là, perché io vado da giù, e comincio da giù e poi vado su. Sì. Allora, credevo che era andato via, invece sono stata là, sede fuori all'albergo, a prendere il caffè con tre ragazze, sì, con uomini di lui. Beh, gli assistenti là saranno. Allora no? c'erano due stendardi là, stendardi. A me non mi dite niente perché da parla così. Ah, tre uomini di guardia, dice, tre guardie. Penso, ecco. Ma ridevano. Ridevano pure loro, devi parlare con Schulz. E poi allora che è successo? Allora sono andata là e sta su. La prossima volta che Berlusconi e che ti incontri, mandalo. Mandalo. Dove? Alla. Dove là? Ma che sei diventata moderata improvvisamente? Io ho detto proprio a romana. Ah, gli hai detto la prossima volta che ti dà del capo mandalo? A fanculo. Così gli hai detto? Io ho detto proprio alla romana, aiuti. E lui? E lui? Lui rideva, perché mi capiva, sa, l'italiano lo capisce meglio di lui. Allora poi dopo gli ho detto, perché in Italia ci ha mandato per stracci, ci ha fatto fare i buchi di croviera a formaggio e noi li dovremmo tutti tappati. Vabbè, salvato tutto, salvato tutto. Vabbè, Annarella, adesso però Berlusconi non c'è più, c'è Monti, abbi pazienza. Ah, bello, bello, i buchi ha fatti Berlusconi per porco di Grazia. Sai che gli ho detto alla figlia di Grazia stamattina? Che gli hai detto alla figlia? Pure la figlia di Grazia? No, Annarella, non c'è più. Ma siamo pure in televisione. Ma siamo pure in televisione, Annarella. Siamo pure in televisione, su TGCom 24, a media. Ma disgraziato, ma che ne sta a fare in televisione? E anche in televisione siamo, certo. Disgraziato. Scusa un attimo. Ma che aspetta, stai a quella di Berlusconi? Sì, quella di Berlusconi, allora? E allora mandacelo pure da parte mia. Ma dove lo devo mandare? Allora, non me lo pari di. Ma dove? Ma basta, ma con Berlusconi. Ma basta con Berlusconi, adesso c'è Monti. Non vabbè, me ne frega niente. Vabbè, ho visto che già sto rimuove le acque, l'inno, tre ore, ci ha messo che fanno. Vabbè, l'inno, non me lo può fare l'inno, scusa, Annarella. Ma Dio che se facesse una bella maschera e se la mettesse in faccia, che ci ha rovinato l'Italia, si ha svergognato dappertutto. Spiegami un attimo, Annarella, hai incontrato la Stefania Graxi, che gli hai detto? L'hai rincorsa pure lei? No, ci ho incontrato sempre. Che ma vedo sempre, gli ho detto, ma la macchina blu c'è la più, E lei che dice? No, ma se non sai se ne va. Come lotta? Annarella, resta lì. Un sacco di risate. O sai che mi dicono i carabinieri? Che te dicono i carabinieri? Senza trovarne una come te, come poterla fare, non lo so. Lo so, fa? D'altra parte, Annarella, un ha po'... Ha detto che sposti la colonna del Parlamento, quando che mi muore e mi mettono sempre da là. D'altra parte ti abbiamo inventato pure noi qui alla Zanzara, t'abbiamo scoperto. È un po' ti abbiamo nostro... scoperto noi, la è nostra... il nostro angelo pane bianco, Annarella. Sì, un po' la nostra politologa. Sì, sì, no, pane bianco, il nostro pane bianco. Dimmi. Ma prima ho parlato pure con Anna Falchi. Pure, che gli hai detto Anna Falchi? Non ho capito. Bella. Vabbè, bella. Oggi ho parlato pure con la Di Girolamo, incinta, non lo sapevo. E non lo sapevi, lo dicono tutti. Allora... Ma l'avevo vista più, però ci voglio bene, perché sta insieme a Boccia. Allora che c'entra? Vabbè, è simpatica, io sono simpatica a lei, io poi voglio bene a tutti. Però quello che c'è, io sono rossa, nata rossa e moro rossa. Però quello che c'è, devo dire, cioè dico, io con Pini mi sono fatte fotografie, Pini mi ha detto, perché sai a lasciarla sempre rossa? Sì. E perché tu ce l'hai sempre nera? Chissà perché. Annarella, ferma un attimo, andiamo a sentire in provincia di Modena Alessandro, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Vada. Senta, mi può cortesemente far capire l'intervento di Mentana, perché l'ho sentito solo quando diceva la FIA non può fare adesso la verginella. Sì, parlava un po' della vicenda, del modo di rapportarsi della Fiat con i giornalisti, diciamo, no? Poi ha parlato anche di mandiamo questa seconda parte di Mentana ieri sera, fra poco. Grazie. La rimandiamo, la seconda parte. Grazie. Di Mentana, quando parla della Fiat di Marchionne, sì. Anche perché un giornalista non guadagna così tanto. Certo, Formigli, visto che è il suo caso, guadagna molto di più di un operaio di Pomigliano, soprattutto dopo l'ultimo contratto degli operai di Pomigliano. Ma guadagna molto meno di un Sergio Marchionne, infinitamente di meno. E a differenza dell'amministratore delegato della Fiat, paga le tasse in Italia. Dunque, Alessandro, dopo che averlo sentito, cosa vuole dire? Dopo averlo sentito dico che, appunto, come avevo detto in segreteria anche, sì, prima, allora, che mi passassero la chiamata, volevo dire che Mentana, Enrico Mentana, secondo me ha ragione. Ha assolutamente ragione. Ma su che cosa ha ragione? Io non ho capito bene cosa c'entra la sentenza della Fiat emessa da giudici definizione dovrebbero essere indipendenti, a meno che non si sostenga che questi giudici sono stati comprati dalla Fiat, allora è un altro discorso, con la vicenda delle tasse di Marchionne in Svizzera. Scusi, cosa c'entra? Ma cosa c'entra? Fai rispondere all'ascoltatore un attimo. Alessandro, cosa c'entra? Mi spieghi cosa c'entra Marchionne, la Svizzera e la sentenza nei confronti di Formigli? No, me lo spieghi. Allora, se lei mi pare di capire che la sentenza si riferisce a quei tre operai che sono stati... Ma non c'entra niente la sentenza, lei non ha capito niente, la sentenza si riferisce a Formigli. Scusi un attimo, Alessandro, però non è che può intervenire su così a muzzo, come si dice in Sicilia. Cruciani! Chi è? Chi c'è? C'è Di Pietro che ti vuole salutare, fermati un attimo, saluti solo, ciao Cruciani. Di Pietro, come sta, caro Di Pietro? Buona fortuna, vedi, io ti porto notizie. Allora, Di Pietro, 2 punti, in esclusiva. Inclusiva la zanzara, buona fortuna. Sei un cretino? Ci sentiamo dopo la borsa. Alessandro, almeno la cosa la deve sapere di cosa si sta parlando, cioè non è che si può. Scusi, allora va bene, io non sapevo che si stesse parlando di Formigli. Si sta parlando della vicenda di Formigli, la sentenza di risarcimento nei confronti di Formigli e della RAI per la vicenda, per quel servizio realizzato sulla Fiat Mito, se non sbaglio. Roma divina, a te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro loro, a te nostra fortezza e nostro orgoglio, ascende il coro. Eccoci qui, caro Parenzo, con l'inno a Roma. Siamo nel ventennio. Siamo ripiombati nel ventennio con Mussolini. Beh, sì, è la canzone preferita non mi danno, io so tutte, sa cosa? Che hai fatto, Anarella? So tutte le canzoni del Mussolini. Ho capito, ma questo qua è l'inno a Roma che Ciarrapico vorrebbe mettere come inno del PDL. Ma che sta in culo, tu è Perugia. Ma chi è Perugia? Che c'entra Perugia, scusa? Di chi è di Perugia, ma chi? Non c'aveva pure la squadra del Perugia. Ma che? Ma quella è un'altra, è Gaucci. Annare, ma c'hai la febbre tu stasera? Chi mi ha detto? Ciarrapico, il senatore Ciarrapico, lo conosce? Ma non stava qualcosa da Roma. Ma sì, era presidente della Roma tanti anni fa, sì, è vero. Ma perché, che ha fatto, poveraccio? C'ha ragione. Perché io sono della Lazio. Anch'io sono della Lazio. Grandissima. Allora, questo è l'inno che Ciarrapico vorrebbe, l'inno a Roma come inno del PDL. Siamo di nuovo sulla zanzara. Stai zitto un attimo, Andarella. Ma no, esclusiva con Di Pietro. Parenzo, stai zitto. Salutemelo. Siamo su TGCom 24, oltre naturalmente su Radio 24. Andarella si trova a letto, mi sembra, la signora Andarella, la grande politologa della zanzara. Dove si trova? Io sto a letto, che è Di Pietro. Sì, Di Pietro non c'è, ma dove stai? No, prima. Perché stai a letto? Perché mi ero mangiato e mi sono messo a letto, che sto facendo? Sto dell'auto, del classe, questa cosa. No, sì, ma ti sei messo a letto alle 7:30 di sera. Come? No, per carità. Non sono a vedere la televisione. No, per carità, sei a letto col telefonino, che hai mangiato stasera? Ho detto il coniglio alla cacciatura. No, non me l'hai detto, l'hai detto a qualcun altro. Il coniglio alla cacciatura. Che sta lì. Sì. Il coniglio alla cacciatora. Vabbè, ma quando è che cucini anche per noi, Annare? Quando te pare, vengi a Roma, io ti fo da bagnare, perché io sono un terrazzo bellissimo, si vedono tutti a Rocca de Papa, si vede tutto. Quando sto io sto a Trastevere, alla stazione Trastevere. Sì, alla stazione Trastevere. Bello, bello. Bello, i carciofi me li fai, i carciofi fritti? Ti fa quelli a giudia. Brava, brava. Veniamo una sera, Annarella, a mangiare a casa tua e portiamo anche il nostro grande amico, il dottore Giordano, va bene? Chi? Veniamo. Giordano. Sì, Mario Giordano, il direttore di TGCom 24. Veniamo Cruciani, io e Giordano, bene? Cruciani è un paracuro. Perché sono perché che ho fatto? No, non dica così, non si permetta. Mamma, io scherzo! Senti un attimo Bersani che dice sulle croste di formaggio. Bersani sulle croste di formaggio. Ti piace Bersani? Certo, sono amica sua. Senti che dice, che nei supermercati... Però questa via con lui pure sui giornali. Sì, sai che dice che nei supermercati adesso mettono in vendita le croste di formaggio perché ci sono un sacco di poveri. Te, Annarella, altro che croste di formaggio, pollo alla cacciatora, carciofi fritti. No, quelle che mangiano loro. Le croste di formaggio sempre. Senti Bersani. Io per il sera mi sono fatto un bel filetto con l'insalatina. Ecco, appunto. Quanto prendi di pensione? Quanto prendi di pensione, Annarella? No, guarda, chi soldi mi ha lasciato il mio marito. E la pensione, quel cornuto che è stato al governo, che c'è ancora, sì, ancora con mamma. Sì. Ma quanto prendi di pensione? Quanto prendi di pensione, Annare? Io, la mia, che io ho sempre lavorato, me l'ha calata perché mi ha messo... Vabbè, ma quanto prendi? 1200. Ah, beh, insomma, voglio dire, no. Allora, poi i soldi te l'ha lasciati tuo marito, le croste di formaggio di Bersani. Io ho imparato in queste settimane che per la prima volta ci sono dei centri commerciali che vendono croste di formaggio parmigiano reggiano o grana ben impacchettate per mettersi alla dimensione della tasca dei pensionati. Non è tutta l'Italia questa, ma c'è anche questa. Si può fare un po' di più. Cioè il pensionato che si compra, va a comprarsi le croste di formaggio, se si è... Beh, insomma, le croste di formaggio, molti mi suggeriscono, molti ascoltatori mi suggeriscono che in realtà ci sono sempre state nei supermercati. Non è una scoperta di adesso, caro Bersani, non è una scoperta di adesso. No, una volta c'erano, state zitto. Ma c'era anche adesso. Un attimo solo, Annarella, Andrea da Milano. Tutti i pacchi di formaggio, non ci stanno più le croste. Ha ragione Bersani, allora. Ha ragione Bersani. Andrea da Milano, chi c'è? Parenzo? Eccomi qua, sono Andrea. Andrea, prego, dica. Andrea. Allora, ma sì, in parte ha ragione Bersani. Sì. C'è un problema. Sai quando, caro Cruciani, quando deve fare la puntata, non so, voi lo fate di sabato, no, la puntata? No. Peccato, e allora quando le capita, ci vuole far lavorare pure il sabato, non lo so. Cioè. Vabbè, dai, non lavora Radio 4, lavora altrove, vero? Quindi sì. Comunque la sua settimana lavorativa lei la fa, mi sembra 7 su 7 così a occhio. Sì, ma di testa si lavora sempre poi. Punto, quello è punto. Allora? Dicevo che in realtà il problema non è tanto il pensionato che va a prendersi la crosta di formaggio o l'avanzo dell'affettato che non è più del salume, che non può più essere servito come affettato, perché questo è cosa che chiunque vada a fare la spesa lo trova in qualsiasi vabbè, allora insomma, qual è il punto, Andrea? Adesso non è che vogliamo fare il punto, che si è abbassata l'età di chi deve andare al mercato ortofrutticolo di via Usoppo a raccogliere la verdura scartata, la verdura lasciata lì. Bah, ha capito? Bah. Questo è il problema, perché con i miliardi di ore di cassa integrazione non è che le tasche si sono riempite, e glielo dice uno che ne si è fatto di ore di cassa integrazione un anno e mezzo. Poi per trovarsi un lavoro si è dovuto pure mettere in proprio, perché non esiste più, no? Quando sei fuori dal lavoro, ormai hai 38 anni, sei vabbè, fuori. Ma lei che vuole dire? Che Bersani ha ragione dicendo perché ha fatto... Parzialmente ha ragione, ma si deve svegliare. Vabbè, è aumentata la povertà, sono aumentate le persone che vanno a prendere gli scarti dai supermercati, eccetera, eccetera. Esatto, certo, è la verità. Lei vada a vedere quanto manzo viene venduto. Annarella, ma perché non insegue? Scusi un attimo, Andrea. Annarella... Lo sa perché? E perché? Ascolta, è vero, perché i supermercati c'hanno i cassonetti di roba, sì, ma la roba che è scaduta e le cose, le mozzarelline, sì, allora? E buttano i secchioni, e lì c'è la gente a piazza. Ma quello c'è sempre stata, la gente che andava a prendersi. Io ho detto a molti, senti, noi siamo arrivati a metà di secchioni, ci fa finire dopo taglio. Ma scusa, ma quando lei hai detto a Monti, scusa? L'altro giorno, 15-10 giorni fa. L'ha incrociato, pure lui è pizzicato? Certo. E perché io vado dentro, sa. Io, a me me devo far passare e basta. A me mi serve il tesserino. Va bene, un attimo solo. Bene, grazie Andrea. Antonio da Bergamo, buonasera. Buonasera. Vada. Oggi ho sentito il collega Barisoni. Sì. Che diceva una notizia riguardante un consigliere di amministrazione della RAI. Sì. Rositani, sì. In quota N. Sì. Il quale avrebbe speso dei soldi parecchi. Sì. Con la carta di credito. Sì, la carta di credito che viene data ai consiglieri di amministrazione della RAI con un tetto di 10.000 euro all'anno, credo, di spesa, no? Ecco. Io non so se abbia superato, poi naturalmente bisogna giustificare queste spese. Lui dice che sono spese fatte come rappresentanze dell'azienda, poi è un conflitto, è una controversia che si vedrà naturalmente, no? Nel merito, anche quel relato Repubblica, peraltro, Rosita. Compreso la biancheria intima, che pare abbia acquistato. Guardi, rappresentanza. Non lo so, io ho letto l'articolo del bravissimo Aldo Fontanarosa su Repubblica, ho appreso di queste cose che riguardano Rositani. Certamente anche a me pare strano che un negozio di biancheria intima, o quello che è, o un altro negozio, negozio di non so che cosa, bravo, abbiano a che fare con le spese di rappresentanza. Dopodiché sono cose, no, che si vedrà, sono cose che si vedrà la RAI con Rositani. Ha un tetto massimo di 10.000 euro di spese di rappresentanza. Se la RAI riterrà giustificate, come fino adesso ha fatto, queste spese, perché non gli sono state contestate la RAI, queste spese giustificherà dicendo che sono delle spese fatte in nome della RAI, o comunque per, come spese di rappresentanza, va bene, altrimenti alla fine si può giustificare tutto. Certo, è importante il consigliere abbia le mutande pulite, visto che siede sul servizio pubblico. Ma guarda, fosse per me il consiglio di amministrazione della RAI dovrebbe essere cancellato e rifatto tutto quello che riguarda il governo della RAI, per cui non ho problemi, però, non me ne frega niente di Rositani, che della festa del peperoncino che fa ogni anno, e nulla di tutto ciò. Dico solo che ha un tetto massimo di 10.000 euro di spesa. Non so come questi soldi siano stati spesi. Da quello che leggo dal bravissimo Aldo Fontanarosa su Repubblica, mi sembra che non ci siano delle spese che tornano come spese di rappresentanza. Mi sembra, perché poi non ho visto il dettaglio delle singole spese. Certo, un negozio di biancheria o un altro negozio non mi sembrano, comunque un negozio non mi sembra una spesa di rappresentanza. I ristoranti forse sì. Certo, alcune spese anche là per i ristoranti mi sembrano eccessive. Magari poi invece ha speso meno dei 10.000 euro il tetto annuale. Però, diciamo che in un'azienda privata questo non sarebbe mai accaduto. Ma cosa? Ma se non sai, ma se non sai come ha speso questi soldi, come fai a dirlo? Se è vera, ma lo sai come ha speso questi soldi o no? Cioè, ti sto dicendo che se è vera la cosa delle mutande. Cioè, generale, che in ma non sono privata, le mutande, è un negozio, anche a me sembra strano. Dopodiché non poi vedremo, non lo so se è quello, appunto, non lo sai, ho detto non lo so, non lo sai. Dico discorso generale, sì, è avvenuto per Minzolini, che in un'azienda privata. Ma che ne sai com'è l'azienda privata? In azienda privata si fanno tante porcherie lo stesso. Presi, sì, ma si fanno tante porcherie lo stesso. Sono soldi del padrone, non del pubblico. Sì, ma io sono d'accordo con te, forse Ermetto gliele, non capisco nemmeno perché uno ha un consiglio di amministrazione della RAI debba avere una carta di credito aziendale, cui oggi peraltro Rositani ha rinunciato. Eccoci qui, 19.46, 800 24 00 24. Devo dire che moltissimi stanno dicendo che questa storia delle croste di formaggio, questa storia delle croste di formaggio evocata da Bersani come simbolo della povertà, della situazione difficile dell'Italia, esistono da sempre e costano pure un sacco di soldi, così mi riferiscono ascoltatori vari. Annarella, ci sei? Sì, sei sempre lì a letto. Resta lì a letto. Quello che dice alla RAI è giusto che cambiano tutto. Berlusconi, perché la mette? Ma che c'entra Berlusconi adesso? Sempre Berlusconi. Annarella, ferma un attimo. Stia a sentire un attimo sotto il letto. Flavia Perina è con noi di Futura Libertà. Buonasera. Buonasera a voi. Come sta? Molto bene. Allora, Fabio Perini è una delle passionarie della destra anti-berlusconiana, come dire, insomma, scrive no, sul... No, non mi piace questa definizione. Lo so, ma io sono... non sono una passionaria in generale. Sono transciani. Sono una persona molto tranquilla. Vabbè, ma passionaria non è brutto. Animata da una passione. Non è una brutta politica, definizione, ecco, passionaria. Tra passionaria e animata di passione c'è una certa differenza, secondo me. Sì. Beh, ma passionaria non è una... Scrive, allora no, siccome viene dalla destra, è stata nel movimento sociale tanti anni, nel fronte della gioventù, adesso scrive sul fatto, si allea con Casini e Rutelli, che appoggiano Monti. Io non capisco più niente. Oh no, Parenzo, capisci tu qualcosa? Io non capisco nulla. Beh no, effettivamente può sembrare apparentemente una anomalia. Ma lei si trova bene, lei che insomma una che fa politica da tanti anni, signora Perina, si trova bene ad appoggiare il signor Monti, per esempio? Ma io mi trovo molto bene. Molto bene. Molto bene, perché ho trovato, soprattutto se Monti manterrà le promesse che ha fatto, sì, ho trovato del coraggio in molte scelte di Monti. Per esempio una scelta coraggiosa qual è stata? Una delle scelte coraggiose è stata quella di affrontare il capitolo delle liberalizzazioni che in Italia insomma, non oggi... era mai stato affondato. Se lo porta fino in fondo è un coraggioso, certo, ora bisogna vedere se lo porta fino in fondo. Il tema, ad esempio, di dell'ICI alla Chiesa è un tema sul quale ha dimostrato coraggio, sulle Olimpiadi a Roma ha dimostrato coraggio. E altri governi in passato non hanno saputo dimostrare lo stesso coraggio. Poi certo, queste decisioni vanno portate al capolinea. Sulle liberalizzazioni, per esempio, molti parlano di passi indietro, sui tassisti, non solo sui tassisti, sulle banche, su altre cose. Il consueto assalto delle lobby, anche veicolate dai partiti, su questo vediamo alla fine chi vince questa partita, insomma. Ma è vero che il signor Miccichè entra pure con voi? Lei come si trova col signor Miccichè? Io non mi devo trovare in alcun modo. A Palermo c'è un turno elettorale molto importante, c'è un'intera città che deve scegliere dopo un'amministrazione assolutamente disastrosa. Il candidato che ha individuato il terzo polo a Palermo, che è un giovane, è Massimo Costa, tra l'altro parlerà sabato qui a Roma al Tempio di Adriano ad una assemblea giovanile di Futuro e Libertà, è un candidato giovane con le idee molto chiare, con un progetto molto preciso su Miccichè volevo dire che adesso, per esempio, molti dicono nel terzo polo si farà la fila per entrare nel terzo polo, non c'è il rischio di imbarcare un po' troppe persone? Non c'è nessun rischio di questo tipo, secondo me. Il vero rischio qua è di fare passi indietro in una direzione che le ultime amministrative, tutte quelle che ci sono state, i referendum hanno indicato in modo molto chiaro. La gente vuole delle persone nuove e credibili che governino le città e il paese. Ma per esempio Casini e Rutelli non è che sono nuovi da questo punto di vista, manco Fini tra l'altro. Io penso che al prossimo giro delle politiche la politica dovrà darsi da fare per fare delle proposte nuove. Cioè non si devono candidare né Fini, non si devono candidare, dice lei, né Casini né Rutelli. Io credo che si vada nella direzione di una proposta nuova. Io non so se si devono candidare o non si devono candidare, ma sembra che il governo Monti abbia archiviato tutta una lunga fase politica nella quale il lavoro che può fare adesso la politica seria per le persone è individuare dei personaggi credibili e una proposta credibile per il paese. Dunque lei dice, scusa Parenzo, se cerco di interpretare quello che dice Flavia Perina. È molto chiaro, interpretare nel senso renderlo dicendo interpretarlo in questo senso. Cioè lei, per esempio, molti dicono Passera potrebbe essere un buon presidente del Consiglio, qualcuno pensa a Casini, Monti come presidente della Repubblica. Ecco, lei uno scenario in cui c'è Casini premier e Monti presidente della Repubblica, come lo vede? No, io non entro in questo gioco, non credo che si realizzi questo. Io penso che sia uno scenario non credibile, non realistico, non auspicabile nemmeno. Quale sarà lo scenario? Lo scenario lo vedremo un minuto dopo le elezioni amministrative, perché è il corpo elettorale che forma gli scenari. Quando gli elettori italiani avranno fatto le loro scelte, la politica capirà in che direzione muoversi. Adesso veramente significa guardare la palla di vetro, fare il gioco dei nomi e dei cognomi. Ecco, però lei in un grande partito con leader Casini starebbe bene, cioè potrebbe essere un suo leader Casini? C'è un grande Casini, Fini e Rutelli al momento sono i leader del terzo polo e tutti e tre in qualche modo hanno anche annunciato il superamento di questa esperienza del terzo polo in vista di una partito della nazione. Esatto, un grande partito con Casini leader, potrebbe avere Casini leader oppure no? Sì, ma perché lei mi vuole incastrare in una cosa? Il mio leader è talmente evidente, ma di che stiamo parlando? Ho capito, poi non è che il mio leader è Gianfranco Fini. Non è che ce ne possono essere due di leader, ce ne sarà uno poi alla fine. Diciamo, io penso che l'esperienza politica verso la quale andiamo prevederà delle soluzioni nuove, differenti da queste. Questo è un gioco vecchio. L'alternativa Fini Casini è una roba di cui si parlava, che era una domanda che andava bene sei mesi fa, quando c'era ancora Berlusconi e c'era la militera. Ma voi come, allora alla fine chi lo farà il candidato Fini Casini? Ora è un altro scenario, un'altra storia. Monti ha azzerato quei ragionamenti. Il governo tecnico ha azzerato anche questo tipo di però una leadership ci dovrà essere sempre, no? Una leadership. Però la leadership si individuerà, insomma. Quindi potrebbe dire che appunto accetterebbe, visto che c'è questo nuovo rassemblement, accetterebbe senza alcun Nuovo rassemblement non c'è ancora, nascerà dopo nascerà dopo la voglio dire, discuterà di questi problemi, insomma. Sono stato a molti convegni di FLI, ad esempio, visto che c'era anche il signor De Mita, cioè personaggi, una volta uno dice no, impossibile vedere Fini e Rutelli insieme, invece è uno scenario nuovo, lei dice sono pronta anche ad accettare un Rutelli e un Casini leader. certamente. Qualunque scenario nuovo è accettabile nel momento in cui c'è una nuova leva politica che si va avanti. Che De Mita si sieda nella platea di un convegno non è molto importante. De Mita è addirittura rappresentante della Prima Repubblica, è già passata la seconda, andiamo verso la terza. Insomma, si potrà sedere in un convegno, io credo, senza determinare le scelte politiche di alcunché. Senta, ma lei si trova più a suo agio con quello che pensa Bersani o con quello che pensa il signor Alfano, per esempio? No, sono curioso. Non mi trovo in questo momento, io credo che sia il signor Alfano che sia il signor Bersani hanno un po' perso il senso delle cose, capito? Perché entrambi sono prigionieri, uno il signor Alfano ancora dell'incapacità di chiudere il rapporto con la Lega, che è un rapporto evidentemente che il PDL deve chiudere, dell'incapacità di deve chiudere per forza. Lei per esempio un netto cambio di passo rispetto al passato. Il signor Bersani è incastrato dalla rincorsa verso la FIOM, verso l'ultrasinistra, stanno ancora nelle secche in cui stavano 6 mesi fa. Ma lei potrebbe immaginare di tornare, dopo tutte le polemiche che ci sono state, il confronto politico, in una coalizione insieme alla Russa, a Gasparri, oppure un'ipotesi? No, io personalmente non lo posso immaginare. No, mai, io non tornerei. Abbiamo una visione della politica veramente differente. Io penso che la nuova politica può nascere soltanto fuori dallo schema populista che hanno rappresentato anche queste persone e che ha portato il paese dove lo ha portato. Se noi abbiamo oggi un governo fatto da persone terze che sono dovute arrivare dalle università, dalla società civile, è anche colpa loro. È anche perché quel tipo di politica non solo non ha risolto i problemi del paese, ma li ha incancreniti tutti quanti. Noi siamo arrivati al punto oggi che la Corte di Giustizia Europea ci condanna per violazione dei diritti umani, la tortura, un paese come l'Italia, insomma. Vabbè, questo che c'entra c'entra perché tutto questo è il frutto della sudditanza anche psicologica di tutta la classe dirigente del PDL nei confronti della cultura leghista, dell'elaborazione leghista, del populismo che non serve a niente. Oggi tra l'altro Bossi ha detto, meno male, dopo questa sentenza ha detto, intanto siamo riusciti a tenere fuori a distanza gli immigrati, ma anche Bossi fino a 3 mesi fa ci raccontava che i problemi dell'economia italiana, dei servizi che mancano, degli asili nido, gli ospedali eccetera, era che ci stavano troppi immigrati. Usciti da questo racconto adesso scopriamo quali sono i problemi veri di questo comunque paese. Mai più con la Lega, questo mi sembra chiaro, mai più con la Lega, mai più con i populismi di qualsiasi tipo. Ecco, ma chi è i populisti? Da Berlusconi è ancora populista naturalmente secondo lei, no? Ma Berlusconi adesso sta cercando di riconvertirsi ad altre modalità perché si è reso conto che appunto che futuro può avere? Racconto non incanta più nessuno. Insomma. Che futuro può avere secondo lei, onorevole Perina? Berlusconi? Ma io guardi non lo so, penso un buon futuro perché è un uomo molto ricco, credo che sia il più ricco d'Europa, quindi certo non ha problemi. Fuori dalla politica. Non credo che abbia problemi di futuro. Ma insomma, il Presidente della Repubblica? Piuttosto che futuro possono avere altre categorie di persone. Ma il Presidente della Repubblica lo può fare? In generale hanno sempre un buon futuro, ma figuriamoci. Mai così? Ma figuriamoci, è impensabile. Impensabile. Allora, torniamo con Flavia Perina fra poco, dopo la pubblicità. Torniamo anche con TGCO 24 alle 20:45. Roma divina, a te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro. Poi Cispoli mandava il carbonio, ma oggi non vorrebbe nemmeno più la pena mandargli il carbonio. Perché a Carbonia stavano benissimo, scavavano. Le moderate frasi di Giuseppe Ciarrapico alla Zanzara oggi, al Tocca Sentire. Non mi risulta neanche questa storia di Carbonia, non mi risulta. Beh, come non risulta? Insomma, lui dice tante cose. Oggi non ha proposto di usare l'inno a Roma come inno del PDL. Sì, anche quello che ho mandato. Appunto, siamo su scherzi a parte. Bravo. Però è senatore, Però è senatore. È senatore. Cioè, abbiamo anche senatori che hanno detto, parlamentari che hanno detto che due donne gay che si baciano sono come fare la pipì in pubblico. Cioè, sì, è controversa quella frase. Senatori, sì, ma dai deputati e dai senatori ne abbiamo sentite talmente tante, che si potrebbe riempire un'enciclopedia di stupidaggini dette per avere un titolo sui giornali, insomma. Comunque è del PDL il signor Ciarrai. Chi l'ha voluto? Chi l'ha candidato? Berlusconi in persona l'ha voluto Berlusconi, a tutti? Berlusconi, credo, sì, lo ha voluto Berlusconi. L'ha voluto per forza Berlusconi perché dice che aveva un gran consenso là in Ciociaria. Ma ce l'avrà? Sì, sì. Ce l'avrà sicuramente. Non ho idea, sinceramente, sinceramente non ho idea. Forse ce l'ho avuto, non credo che ce lo avrà al futuro. Ma eppure venite, dalla stessa, dalla stessa cultura politica, se vogliamo proprio dire così, no? Cioè... Ah, no, veniamo diciamo nell'area della destra politica italiana, sai, era un partito dentro un ghetto dove c'era un po' tutto, il contrario di tutto, poi insomma le provenienze politiche, cioè chi si evolve e chi invece fa passi indietro. Lui è rimasto lì. È rimasto lì. Che voglio, poi che è andato pure un pezzo indietro, perché robe del genere io dentro il movimento sociale sinceramente le ho raramente sentite dire, forse soltanto al bar, non certo in dichiarazioni radiofoniche, da parte forse dei più rozzi degli attivisti, quindi io penso che non è che è rimasto lì, è andato un po' più indietro. Cioè Almirante non la pensava così, dice lei? No, assolutamente. Non avrebbe mai detto cose di questo genere? Non avrebbe mai detto cose di questo genere, non le ha mai dette, non le avrebbe mai dette. Senta, ma la vicenda Vattani invece, sono curioso di sapere il suo pensiero, perché lì invece c'è da discutere, cioè il fatto che un console, per chi non lo sapesse, il console italiano ad Osa, che è stato adesso richiamato perché durante una sua attività privata, che è quella di far parte di un gruppo rock, fascio rock, così viene chiamato volgarmente, avrebbe fatto il saluto romano, e poi in quelle canzoni c'era anche un riferimento alla Repubblica Sociale, forse dei termini offensivi nei confronti della Repubblica, sono canzoni naturalmente che però esprimono, come dire, un'idea politica sicuramente. Secondo lei è opportuno o no fare un processo a Vattani perché durante un concerto ha fatto il saluto romano? Ma il governo è stato fatto un processo. Io no, un processo non penale, un processo penale no. Diciamo il Ministero degli Esteri ha aperto una pratica su questo e ha fatto le sue scelte. Fatto bene? I comportamenti, i soggetti in qualche modo pubblici, i soggetti che assumono un ruolo pubblico, no? Sì, in qualche modo sono tenuti anche a darti una regolata in generale nei comportamenti privati, e poi sta alla valutazione degli enti da cui dipendono, in questo caso il Ministero degli Esteri, di vedere se alcuni comportamenti privati che poi diventano pubblici sono coerenti con il ruolo che una persona assume, sinceramente. Ma è incompatibile. Ecco, questo qua è quello che è successo, ma secondo lei da è quello incompatibile che capisco, la funzione di console di Osaka, cioè di rappresentante dello Stato italiano con i canti dello Stato italiano in linea generale, siccome poi tra l'altro in passato, cioè non è un problema che riguarda, anzi forse questo caso di Vattani è il caso più piccolo che ci è capitato sotto gli occhi, chi rappresenta lo Stato italiano in generale, un deputato, un parlamentare, un ministro, un capo di governo eccetera, deve essere attento anche nelle sue espressioni private. L'Italia ne ha discusso per 2 anni sui comportamenti di Silvio Berlusconi su tutto questo, no? Qual era l'incrocio tra pubblico e privato. A me piace una politica in cui chi rappresenta lo Stato italiano si attiene a dei comportamenti, diciamo, che sono in linea con quella che è l'immagine. Dunque Vattani ha tenuto un comportamento poco consono al fatto di essere un console, un rappresentante delle istituzioni, poi insomma un privato cittadino, uno che c'ha un negozio di alimentari alla fine. Ma perché uno non può andare in un concerto a cantare, a dire quello che vuole? Cioè c'è anche un problema di libertà, o va chiuso quel gruppo perché è anticostituzionale quel gruppo di cui fa parte Vattani, oppure uno nella propria attività. Io non credo che abbia chiuso quel gruppo, io penso che qualunque gruppo, abbiamo tantissimi gruppi musicali che fanno musica con dei contenuti spesso discutibili. In generale il leader di un gruppo musicale o il cantante di un gruppo musicale di Skinheads non pensa di poter fare il ministro, no? E non può fare nemmeno diplomatico. Il rappresentante italiano ad Osaka, io non so se non può farlo, io credo che il Ministero degli Esteri, non conosco con esattezza, abbia preso dei regolamenti interni, abbia preso delle decisioni sulla base di regole, no, che esistono, non credo che abbia preso delle decisioni sulla base non so, un'opinione o di un'idiosincrasia personale verso un diplomatico. No, volevo sapere se lei considerava giusto intervenire in questo caso, penso di sì, insomma, da quello che penso che sia giusto intervenire in tutti i casi in cui viene chiamato in causa la rappresentanza della Repubblica Italiana, che è l'Italia è un paese serio che deve essere rappresentato seriamente. E senta, siccome ne abbiamo visti troppi, sì, in questi casi, di un paese, sì, veramente rappresentato al di sotto dei suoi standard, una rappresentanza che in qualche modo in tante circostanze, forse questo è il caso meno importante, che ha offeso, sì, meno gli italiani, ma io ho visto cose che hanno offeso le donne italiane, che hanno offeso il racconto pubblico italiano, eccetera. Dobbiamo entrare in una fase in cui questa cosa non si può più fare. Senta, tornando alla vicenda per esempio di Giovanardi, no? A lei per esempio quel bacio collettivo sotto casa di Giovanardi da parte di gruppi di omosessuali eccetera, piaciuto? Sono scelte, non è che mi piace o non mi piace, sono scelte. Sinceramente penso che Giovanardi non meritasse tanta attenzione, la meritava prima quando aveva un incarico importante, perché era un sottosegretario, sì, importante, sì, e perché rappresentava in qualche modo il racconto pubblico del governo sui temi della famiglia e su temi molto rilevanti, sì, anche per gli italiani. Adesso, no, adesso è un semplice parlamentare che ha detto una sciocchezza, non credo che meriti, non credo che meriti più attenzione di qualche corsivo sui giornali. Lei ha qualcosa in comune con la signora Santanchè? O non ha più nulla in comune? O pochissimo? No, l'ha mai avuto, diciamo, ho avuto in comune, lei è stata, ha fatto parte di Alleanza Nazionale per un brevissimo, sì, tratto, sì. Non credo di avere nulla in comune con le sue opinioni in ordine, insomma, con quello che almeno dice in televisione. Insomma, sì, ma ha definito recentemente con un cambiamento di opinione, dice chi cambia, chi non cambia, chi non ammette di aver sbagliato, insomma, è un cretino chi resta sempre della stessa opinione, ha definito cazzutissime le donne del governo Monti. Sì, e quella è stata una delle dichiarazioni che a me mi hanno più divertito. Perché? Perché? Perché vedere, diciamo, quello è proprio il cambio di passo, secondo me è il simbolo proprio del tentativo di cambiare appunto questo racconto, cioè, berlusconiano. Un paragulismo, dice lei. Sì, fino a non so, a 5-6 mesi fa hanno fatto le manifestazioni con le mutande appese in difesa delle ragazze portate delle frequentazioni, sì, non delle frequentazioni, là c'era un punto in più, c'era il caso delle ragazze delle feste portate nei consigli regionali, candidati alla Camera, sì, eccetera, che sono state difese con le mutande appese. Oggi ci raccontiamo che sono le cazzutissime ministre, e se erano così cazzutissime perché non ce l'hanno messe loro prima, non hanno cercato donne di questo profilo per il governo, insomma. E dunque perché adesso c'è questo cambiamento? Mica l'abbiamo importata dall'estero, insomma. No, beh, questo infatti io l'ho detto, perché non l'avete messe voi là? Appunto, però lei mi ha detto beh sì, è stato un errore, potevamo mettercele anche noi, ce l'avevamo. No, io comunque sono sempre favorevole ai ripensamenti, ecco, comunque però lei dice un po' paraculo, insomma, questo ripensamento un po' furbo, ma sì, a me sembra un ripensamento un po' furbo, ma magari è autentico, vai a vedere, tutto può succedere. Ma chissà che non vi ritroverete insieme in futuro. Impossibile. No? Ma in linea generale io personalmente tendo ad escluderlo, insomma, cioè io credo che ci sia tutta quanta un'area del PDL che è difficile che si ricicli in una terza repubblica. Allora diciamolo così, cioè com'è difficile che si ricicli in una terza repubblica? Cioè, dice, cioè dopo l'esperienza Monti, un'ala del PDL secondo lei è difficile? Certo, e che faranno? Che faranno? Ah, non ne ho idea. In generale, siccome sono tutte persone appunto che hanno comunque delle attività imprenditoriali importanti, a cominciare dalla Santanchè, ma anche tanti altri, comunque hanno. Cioè la Santanchè dovrebbe tornare a fare l'imprenditrice? No, diciamo. No, lei lo fa tuttora, lo ha sempre fatto. Sì, ma dovrebbe tornare a fare solo l'imprenditrice. Il suo lavoro di imprenditore, insomma, non è che sono persone che hanno comunque altri lavori, altre attività e anche molto, diciamo, in generale remunerative, quindi insomma io non penso che abbiano grandissimi problemi, insomma. Beh no, per esempio la Russa, Gasparri, no, fanno i politici a tutto tondo da un sacco di anni, non è che hanno altre attività, insomma. No, la Russa ha un importante studio legale, la Russa è azionaria, insomma, di una certa qualità, quindi insomma potrebbe anche tornare a fare solo quello, dice lei. Io non credo che ci siano molte persone che hanno dei problemi. Poi ad esempio immagino che appunto il PDL è in forte crisi, cioè i sondaggi che vanno molto male, ma insomma, ma esiste ancora? La Russa lo riuscirà a far rieleggere. Esiste ancora? È difficile che riuscirà a far rieleggere. Almeno la Russa lo riuscirà a far rieleggere, perché insomma anche con gli attuali sondaggi, che credo che siano intorno al 20%, insomma qualcosa a casa porterà. Ecco, ma come il partito esiste ancora secondo lei, il PDL, oppure ma ormai? Secondo me il PDL, adesso facendo un discorso serio, è in una crisi irreversibile, serissima. No, è in una crisi serissima, non dico irreversibile, non c'è niente di irreversibile nella vita, ma è una crisi molto seria, perché c'è l'inno nuovo adesso, c'è l'inno nuovo, onorevole. C'è l'inno nuovo, ecco, in generale insomma è difficile che bastino gli inni per risollevare i partiti, non si capisce neanche bene cosa voglia fare Berlusconi. La vera crisi del PDL è che il PDL è nato come un partito contorno, ha cercato di trasformarsi in un partito vero, ma alla fine è sempre rimasto un partito contorno. Nel momento in cui Silvio Berlusconi non si capisce con esattezza che cosa vuole fare, il PDL è smarrito, perché è il contorno di una cosa che non si capisce che cosa vuole fare. Vabbè, comunque questa è la situazione molto in divenire. Io la ringrazio, facendole quest'ultima domanda. Secondo lei che è stata, e lei è stata fascista, onorevole Perina? Io da ragazza era fascista. Mi sono, non so, intorno ai 18 anni, era una definizione che esisteva, non fascista, era là, era una definizione di comodo di quegli anni, chi era del MIS era fascista. Appunto, però lei si dichiarava fascista sicuramente. No, io non mi dichiaravo, io non mi sono mai dichiarato. Cioè, chi era più fascista, lei o Gasparri all'epoca? No, non mi sono, eravamo, anche quando avevo 18 anni sono stata sempre molto differente, anche da Gasparri, infatti avevamo sempre posizioni molto diverse all'interno del partito, io comunque non mi sono mai personalmente... Lei era rautiana, mi ricordo, o no? Io la facevo parte anche all'epoca dell'ala sinistra del partito. Ma c'era qualcosa di positivo che ha fatto il fascismo, secondo lei, una cosa? La bonifica pontina sicuramente, chi ha letto Canale Mussolini di Pennacchi sa di che cosa parlo, una sola cosa. In termini di una grande opera, no, la prima cosa che mi viene in mente, perché è la più bella, è un racconto italiano importante, nel quale poi mica sono entrati soltanto i fascisti, è entrata la povera gente, gli immigrati del Veneto, la gente che non aveva niente e che ha avuto qualcosa. E dunque ne ha fatte di cose positive, insomma. Ed è una storia italiana molto bella, secondo me, che meriterebbe di essere raccontata, ad esempio, in televisione. Come storia nazionale, non come storia del fascismo. Ma ne ha fatte allora di una grande opera nazionale. Ne ha fatte di cose positive allora? Questa cosa a me piace molto. Lei l'ha letto Canale Mussolini? Sì, come no, Canale Mussolini è bellissimo. Come le è sembrato? Molto bello, molto bello. È un bel libro, un bel racconto italiano. Sì, insomma, sì, assolutamente. No, a prescindere dalle definizioni ideologiche. No, vabbè, ecco. Che c'entra questo sì. Insomma, ero curioso di sapere se c'erano state delle cose positive. Questa appunto è la prima cosa che mi viene in mente, perché è anche una cosa che... La cosa tra l'altro significativa è che il successo di questo libro e di questo racconto ha in qualche modo coinvolto anche la sinistra. Io ho sentito tanti colleghi che hanno tutt'altra, che sono stati... sempre fieramente antifascisti, anche nel loro racconto, eccetera. Però riconoscere in questo libro una grande storia italiana che appartiene a tutti, al di là di queste categorie ideologiche. E questo penso che sia una cosa buona, un segnale buono davvero del superamento di tante guerre civili che hanno cercato artatamente di riportare in Italia, anche in quest'ultima fase. Me ne dica un'altra, dato che ci siamo, me ne dica un'altra di cosa positiva, così, dai, al volo. E che facciamo? Che ne so? Guardi, una cosa che mi è sempre piaciuta, mi è sempre piaciuta, sono state le immagini delle ragazze italiane alle Olimpiadi di Roma e il racconto di mia madre che mi raccontava di come lei aveva cominciato a fare ginnastica a scuola. Prima la ginnastica era interdetta alle donne, perché queste donne in calzoncini corti, con le gambe di fuori, diciamo, all'italiana. C'è la cultura dello sport durante il fascismo, erano, dice lei. Trasgressive. Quindi quest'idea, lei, ecco, mia madre mi ha sempre raccontato l'orgoglio di queste ragazze che magari sfilavano nelle città in calzoncini corti, anche un po' scandalizzando i ben pensanti. Sì. Quindi questa è un'immagine bella che la cultura viene in dello mente, sport, la cultura dello sport. La cultura no, l'accesso delle donne a delle cose che prima gli erano interdette. Durante il fascismo. Bene, grazie. A presto, lei. Pubblicità. A lei. Roma divina, a te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro loro. Il fascismo li mandava al carbonio, ma oggi non varrebbe nemmeno più la pena mandarli al carbonio. Perché al carbonio stavano benissimo, scavavano. Salve! Ma io dico, guarda, più fai bene a far ascoltare questa roba. Sì, sì. Questo signore, il signor Ciarrapico, è un senatore della Repubblica. E allora? E si permette di dire con questo, anche con Baldo, facevano bene a mandarli, facevano bene. No, non ha detto facevano bene. Beh, stavano ha detto bene. Stavano bene. Stavano bene. Il fascismo li mandava al carbonio, ma oggi non varrebbe nemmeno più la pena mandarli al carbonio. Capito? Perché al carbonio stavano benissimo, scavavano. Sul colle. Non parlare, che poi interviene subito Ciarrapico quando parli. Parli e interviene Ciarrapico, capito? Andarella, la voglio richiamare, Andarella, che la voglio salutare. Che ha fatto? Ha spento? È impazzita Andarella. Domani la richiamiamo, no, poveraccia, sì, l'abbiamo tenuta al telefono. Franco da Bari, buonasera. Chi è Franco da Benevento? Sì, buonasera. Vada. Buonasera. Guardi, sarò brevissimo perché per sopravvenuto impegno. Le volevo solo chiedere, dire, una cortesia. Sì, prego. Lei, parlando al microfono, sì, ha rispetto a noi che telefoniamo, sì, una sorta di prevaricazione della sua voce rispetto alla nostra. Mi sembra normale ed è anche giusto che sia così. Ora, siccome la prevaricazione... Ma non è la democrazia questa cosa, non c'è la democrazia qui, Franco. No, guardi che non ho detto democrazia, vede, lei si parla addosso, quindi non ho detto democrazia. La prevaricazione ci impedisce di dire le cose che vogliamo dire, e appena queste non sono in linea col suo pensiero, lei alza la voce, non è più un problema solamente di chi ascolta, se riesce ad ascoltare bene o male, ma è un problema di educazione. Sì, lei dice, quindi io la inviterei a, come dire, considerare questo aspetto tecnico. Sì, io l'ho interrotta? No, questa volta no, questa perché volta effettivamente no, la sto sgridando e quindi mi sta ascoltando. No, guardi, il 90% scusi, ma la devo lasciare perché ho un altro impegno. Sì, il 90% delle volte accade quello, esattamente quello che sta avvenendo adesso, Franco. Giorgio da Roma. Sì, buonasera. Vada. Allora, guardi, mi ha bruciato l'intervento la Flavia Perina, che dimostra ancora una volta di essere la più brava, sia dei tempi della scuola sia in futuro. Allora, cambio al volo il mio intervento dicendo che sono d'accordo totalmente con quello che ha detto lei. Per fortuna l'avete invitata, avete risollevato non tanto la trasmissione, che la trasmissione è molto accattivante naturalmente, ma il destino della destra, perché farsi rappresentare da un semi analfabeta come Ciarrapico, come romano e come persona di destra che ha combattuto e che ha anche rischiato negli anni 70, francamente è veramente umiliante farsi rappresentare da quello. Dopodiché, se mi è permesso, 30 secondi sulle Olimpiadi, visto che forse non è... Però è vada. È svanito un incubo, non si è dissolto un sogno. Beh, questa è roba vecchia però. È roba vecchia, ma è una città, Roma, in cui basta che chiudono una strada e si rende... Che Giorgio, io guardi, tendenzialmente sono d'accordo con lei, l'unica cosa che non sopporto, poi magari purtroppo siamo arrivati a questo punto, l'unica cosa che non sopporto è il catastrofismo, l'arrendersi di fronte a quella che però è una realtà, cioè la nostra ormai cronica incapacità di organizzare grandi eventi. Io non vorrei arrendermi, la realtà è che però l'esempio della nostra destra al potere, e quando dico nostra intendo di quelli della mia età, cioè gli Alemann e Company, fanno capire come sono talmente sprovveduti che di fronte a una cosa piuttosto semplice come la chiusura di una strada, ne avete parlato, se ne è parlato in tutti anche i giornali radio, eccetera, allora? Una settimana fa, ha portato alla chiusura di un intero quartiere per 3 giorni. Lei può immaginare cosa sarebbe accaduto con i lavori per le Olimpiadi? Sì, però guardi, posso immaginare. No, ma ho capito Giorgio, però francamente, non ripeto, partire dal presupposto che non siamo in grado, poi la situazione magari è questa. Io non sono di quest'idea, cioè penso che comunque ci sia la possibilità, magari non era questo il caso, di organizzare delle cose con persone competenti che non rubano, che non fanno disastri, che organizzano le cose per bene, altrimenti dovremmo concludere che è tutto finito, che non si può. Ma finora è tutto finito, sì. Grazie Giorgio. Mario da Roma, buonasera. Purtroppo. Buonasera, ciao. Cruciani, complimenti per la trasmissione. Niente, ti avevo chiamato per Vattani perché ho acceso la radio nel momento in cui si parlava di Vattani e ho sentito che scusate, se tu abbiamo la stessa età e ho sentito che tu dicevi che allora nessuno potrebbe più cantare eccetera eccetera. Non è quello, non è che lui non canta, lui fa apologia di cose che sono virali da noi, quali il razzismo, il fascismo, il nazismo e tutte queste belle cose, per cui non deve stare al suo posto perché non può rappresentare tutti gli italiani. E cosa bisogna fare? Una piccolissima parte. E cosa bisogna fare? Deve tornare a casa, ne mettessero uno veramente. Questo sta a casa, è già tornato. Poi le altre conseguenze. Ecco, e poi mi ricollego al discorso che stai facendo adesso tu con questo qua ultimo di destra. Dice com'è che questi di destra quando vanno al potere basta una nevicata perché sono degli incompetenti. Perché gente che non è che è arrivata al dove è per meriti o per cose, hanno avuto botta di culo che è arrivato Berlusconi, che è circondato di gente che non sapeva far nulla, e qua veramente le cose allo sbaraglio. Qui sono andati però, scusi Mario, adesso al di là della, al di là della, del suo giudizio sulla classe politica a della tutti destra, i livelli, a tutti i livelli, sì, sì, eh? Però il punto, guardi, che riguarda Vattani secondo me è molto semplice. Se decidiamo che un funzionario dello Stato di qualsiasi livello, diplomatico, poliziotto eccetera eccetera, non può nella sua vita privata avere le sue idee, e in questo caso anche andare in un luogo privato, in un luogo privato, in un locale pubblico, in realtà ad un concerto, che sia esso di ispirazione fascista o comunista, insomma il come dire, il discrimine è piuttosto labile, cioè il confine è piuttosto labile. Ma perché labile? Perché da che e poi comunque in ogni caso, scusi, anche se prima. Guarda, anche se si considera, anche se si considera inopportuna la questione Vattani, cioè il modo in cui si è comportato Vattani, dopodiché, dopo una sanzione, dopo quello che vogliamo, poi basta, perché poi una persona va giudicata dal lavoro che fa, non dal fatto che dentro casa c'è i poster di Mussolini, ma o i poster, casa, o i poster di Stalin, o che fa parte di un gruppo, cosa di cui fa parte da non so quanti anni, di un gruppo di musicale ispirato al fascismo o al comunismo. Il punto non è quello, il punto è, nel suo lavoro è una persona competente, capace, che fa il proprio lavoro, oppure no? Dopodiché quello che pensa non è quello che pensa. Dentro casa è ovvio che nessuno va a vedere se ha il busto di Mussolini, non mi stupirebbe che ce l'avesse, ovviamente. Il problema è che, siccome è un funzionario pubblico e rappresenta lo Stato, avrebbe avuto, doveva avere il buon gusto. Sì, allora di non che bisogna fare? Dopodiché, benissimo, ha sbagliato. Quella allora gazzarra fascista, sì, fare il saluto romano, va bene, poi e cantare storneste. No, no, cosa poi? Va bene, poi una volta che poi ha fatto questo, no, poi non c'è il traffico, non c'è il meteo, e cantare stornelli razzisti, va bene, e poi fascisti, perché rappresenta l'Italia. Va bene, poi dopodiché che gli facciamo? E paga per quello che ha fatto. Paga in che modo? A casa, arrivederci, addio Osaka. Ciao Osaka. Ma questo Vattani è già stato fatto, è già ciao stato fatto. Non è che vada a Casa Pound ora. Vada dagli amici di Casa Pound a cantare. Va bene, Francesco da Roma, buonasera. Non so. Vada. Buonasera, signor Cruciani. Non la chiamo dottore perché non è il caso. Vabbè, non me ne frega niente. Ecco, appunto. Aspetta un attimo, ma lei ancora intervista quella povera demente lì, quella vecchia là, quella. Ma perché povera demente? Andarella, poverina. Ma cioè, ma mi dica un po' una cosa, ma ha sentito quello che esce dalla bocca? E beh? E allora, per lei è normale, praticamente. Ma non si vergogna, non lei, io parlo della signora, chiamiamola signora. E vabbè, ma è un po' così, è Annarella. È un po' così. Non è Angelo Pane Bianco, è Annarella. No, è Annarella. È Annarella, sì. Ho capito. Vabbè, è Annarella, cioè non è con chi pensava di parlare lei, scusi, chi pensava di sentire quando interviene Annarella? Non ho capito, mi spieghi. Ma come sarebbe a dire? Ma perché è lecito che da una signora così anziana, sì, ma come no? A proposito, non sposa più contro Berlusconi, non ci va di la sera. Francesco, ma è un personaggio, è diventato una specie di personaggio, una specie di nuovo mostro, una specie di nuovo mostro. Ma vergognatevi a intervistare certa gente. Ma io non mi vergogno per niente, si vergogni lei. No, mega. Siete bravi, Siete bravi. Allora, senti. I manicomi erano chiusi, una fregatura quella, ragazzi. Buonasera. Aspetti, Francesco. Ma questo, signore? Aspetti. Allora. Allora. Ma quanti anni ha lei? Pronto. Quanti anni ha? È lei che gli interessa quanti anni ho. Ma no, perché qui a dire questa signora anziana, ma poveri, è un personaggio, protagonista della vita. Poi è stata anche visitata dai medici della casa. Protagonista quindi della vita, la vita politica mi sembra esagerato. No, protagonista. La politica. Allora. Metteva la tenda lì al Parlamento, ma non ce la mette più, come mai? Io pensavo che fosse morta. Ma non si augura a nessuno, ma che dice? Ma che non si augura? Ma magari schiattasse subito. Ma è veramente una persona di cattivo gusto, lo sa? Sì, buonanotte, è proprio ciao di cattivo gusto. Ciao bello, ciao. Ma la sente ma o no? Francesco, ma la sente o no, Annarella? Come, non la sento? Allora, è tutto là, vedi? Allora, vabbè, va. Ma ci parli, no? Bella trasmissione, Andiamo proprio in deperimento, Cruciani. In deperimento ci va lei. Ci va lei in deperimento. Complimenti proprio. Ci va lei in deperimento. Sì. Ciao Ciccio, belli. Beh, Ciccio lo dice a qualcun altro. Sì, una volta ne affanculo, va. Ciao, bello. Ma come si parla? Ah, allora! Borsa, borsa. Roma divina, a te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro oro. Il fascismo li mandava a carbonio, ma oggi non varrebbe nemmeno più la pena mandarli a carbonio. Perché a Carbonia stavano benissimo, scavavano. Oh, ghiaccia la pico, che se ne vasse dalla faccia della terra. Ti sfavilla in fronte il sol che nasce sulla nuova... E siamo qui, la Zanzara riprende alle 20.35, 800 24 00 24. All'insegna del ventennio. Andiamo a Firenze dal signor Patrizio, buonasera. Buonasera, buonasera. Vada. E allora, no... Vi chiamavo per dirvi che il formaggio in effetti c'è nei supermercati a 3 sì. euro e mezzo al chilo, però non è il target che pensa Bersani, perché un formaggio, una parte finale, lo prende, se lo fa a fine, viene un buon formaggio, un buon capello, come dicono i francesi, bellissimo così. Non, cioè, mi sembra che non è una roba da poveri, dice lei. Ma non è una roba da poveri, fa parte dei target del mercato. Cioè, al mercato a volte io ho un cane, prendo delle puntine per fare il lesso, 99 centesimi al chilo. Sì. Faccio il lesso, il brodo per me, il lesso per il cane, va bene così. Cioè, non, quello che mi ha dato noia un po' è pensare che uno statista, che si può chiamare così, no, il responsabile di un grosso partito italiano, certo, si attacchi a queste cose per dimostrare che cosa? Niente, perché che gli italiani sono in difficoltà, questo no, ma non è vero, perché non è il momento facile, ma però bisognerebbe pensare a tutto quello che è successo quando Milano era da bere, quando io vivo in una regione di sinistra, sì, dove la sinistra rimpinzava sanità, organi pubblici, tutto il resto, che non si possono più licenziare, e problemi ci sono. Quindi non è questo il segno che mi piace da una persona che si propone come una persona che deve guidare un paese, era soltanto questo. Va bene Patrizio, grazie. Vittorio da Modena, buonasera signor Vittorio. Buonasera Cruciani. Vada. Ho sentito un po' anche l'ultimo, per quanto riguarda le coste di formaggio. Sì. Un super ipermercato della Coppe qui a Modena le vende tranquillamente, sì, sono confezionate in triangolini, ce ne mettono 3-4 e vengono confezionati e vengono posti in uno scaffale a fianco ai parmigiani. Sì. E di solito è parmigiano reggiano, diciamo così, la crosta, allora? È relativa alla superficie tonda della forma del parmigiano reggiano, che viene tagliata e messa in vendita, adesso il prezzo non me lo ricordo. Vabbè, allora che vuole dire con questo? No, niente, quello che lei diceva, che non è una roba per poveri, che non vendessero croste di formaggio. No, ci sono, e come? Cosa diversa invece per fare l'esse lunga, questa toglie il formaggio, toglie la crosta, ma non la mette in vendita. Ho capito, scusi Vittorio, adesso al di là del fatto che alcuni supermercati fanno delle cose, altri ne fanno altre. Ma per carità, lei... Ho capito, lei, Vittorio, ma... all'inizio della trasmissione lei aveva asserito che... In base a quello che aveva dichiarato Bersani, compagnia bella, che c'erano dei negozi che vendevano le croste di formaggio. Ecco, io le dico sinceramente che anch'io non butto via niente. No, ma non ho capito, ma il punto non è questo, il punto è che Bersani parlava di queste croste di formaggio come l'esempio... del fatto che in Italia non si sta benissimo e che dunque ci sono sempre più acquisti di queste croste di formaggio, ma non mi sembra così. Quella delle croste di formaggio è una cosa abbastanza recente, mi risulta. Va bene, grazie Vittorio. Intanto ha un convegno, il convegno ci sarà il 27 febbraio sulla questione del signoraggio bancario. Sai di chi sto parlando, vero? Per forza, quando si parla di signoraggio la mia mente va subito a signor Scilipoti. Signor Scilipoti, il titolo del convegno è Le origini del signoraggio bancario. Si terrà lunedì 27 febbraio a Roma. Ha invitato naturalmente anche la signora Tommasi, una delle massime esperte peraltro. No, ma lo dice proprio così, Sara Tommasi è esperta di finanza, lo assicura l'infaticabile Domenico Scilipoti. Bene, rassicurati da questo, andiamo a... Che ora è? Credo intorno alle 15. Alle ci 15. Saremo anche noi. Sì, sì. Tra l'altro, nel prezioso invito all'incontro dal titolo Le origini del signoraggio bancario, che potete scaricare dal sito della Fiamma Tricolore, c'è tutto il programma Perché c'è la fiamma? Beh, non lo so, infatti c'è evidentemente un... Parlerà anche il professor Claudio Moffa, il professore di Teramo, che afferma che non ci sono documenti che provino che Hitler abbia mai ordinato l'olocausto degli ebrei, tra l'altro. Ma il signor Claudio Moffa, sì, pare di sì. Ma che vergogna. È una cosa pazzesca. Invita praticamente tutti, chiunque, il signor Scinipoti. Perché non lo chiamiamo il signor Moffa? Beh, lo chiameremo. Questo vergognoso signor Moffa. I mostri della zanzara. Bene, Gianfranco da Roma. Buonasera, sperando che regge la batteria che mi sta suonando. Vada. Senta, allora, argomento già discusso stasera, però una domanda che faccio a lei. Perché non crede a questa cosa delle crosse di formaggio? Anche se è simbolico il discorso delle crosse di formaggio, perché guardi, è chiaro, guardi, che è una cosa... Perché non ci crede? Perché credo che la questione degli italiani sempre più in povertà o delle fasce di poveri che vanno ad aumentare... Ma è vero. Bisogna andare a vedere bene le statistiche, insomma. No, non parlo delle statistiche. E di che cosa? No, non è una questione di statistiche, perché è bello leggere le statistiche o dietro una scrivania o davanti a un computer, perché io sono convinto di una cosa. Che, di che cosa è convinto? Di una cosa normalissima, penso. Sì. E cioè che i problemi parliamo dei problemi, esistono nel momento in cui si vivono. E allora? Cioè, se uno non è povero non può parlare dei poveri? No, non ho detto che non può parlare, ma lei può parlare come vuole, assolutamente, avere una sua opinione, però siccome che l'argomento è... No, scusi, però restiamo alla cosa che ha detto Bersani. Io mi stupisco sempre di più, ha detto, mi sembra, nell'osservare nei supermercati la presenza di croste di formaggio, cioè questo vuol dire che aumenta il numero dei poveri, mi sembra una cosa un po' ridicola, francamente. Hai visto croste di formaggio in vendita nei supermercati? Come, scusi? Chiedo a mia moglie. Chiedo a sua moglie, sì. Le croste di formaggio? Le croste proprio di formaggio. Ma le croste di formaggio, guardi che... Ma si usano per cucinare. Ma si usano a prescindere dal fatto che aumenti o meno la povertà. Ma lo sa perché lo dico? Perché io non ci avevo mai fatto caso, e ci vado al supermercato. Però io pensavo che era un modo di dire, no? Probabilmente che in parte era vero, ma pensavo che era fondamentalmente un modo di, così, simbolico di manifestare una situazione. Io le posso dire che non compro le croste di formaggio, ma perché non le ho mai viste, ma penso di andarle a comprare. Quindi apposta le dico che un problema esiste nel momento in cui lo si vive, altrimenti se ne parla solo. Va bene, Gianfranco, però adesso io francamente non ho capito quello che lei vuole dire. Io so solo che la frase di Bersani, perché non è che voglio impiccare Bersani in questa frase, è assolutamente, come dire, esagerata, a dir poco. Giovanni da Verona, buonasera. Buonasera. Vada. Volevo commentare anch'io questa frase di Bersani per, io dico, la lontananza di questi personaggi che non vivono la vita reale. Le croste di formaggio, io l'ho sempre viste, ma fin da quando ero bambino, se voi le fate sulla griglia, le pulite e le mangiate, sono buonissime. Lo so. Che le mangia tutto male. E non è una roba da poveracci. Ma no, è una cosa normale, se uno li va, se gli piace, la fa. Questo qua veramente è quello che mi dà senso. Il senso di questa frase, la lontananza della realtà di questa gente. Ma Bersani guardasse la prova del cuoco, che ne so, Masterchef o altro. Ma no, ma è un modo di dire, perché è vero il racconto che molti ascoltatori hanno fatto, che ci sono sempre di più persone che vanno al supermercato, nei mercati ortofrutticoli verso la chiusura, e raccattano gli avanzi. Ma non le croste di formaggio, non so se sia vero. Ma le croste è un'iperbole, magari, voglio dire. Ha detto una sciocchezza, l'ho detto anche prima, non mi sembra. Sì. Non credo che siano aumentate le persone che vanno fuori dai supermercati a prendere gli scarti. Ci sono sempre state, sempre ci saranno, non credo siano aumentate. Poi una cosa è che diminuisce la ricchezza in generale degli italiani, ma non è che aumentano proprio i poveri, quelli che vanno a chiedere. Ci sono delle fasi in cui l'economia va male, aumentano anche i poveri, ma mi pare abbastanza normale, no? Sì, ma non i poveri che vanno a chiedere. Cioè, ma certo, scusa, però la logica ai suoi diritti, no? Se c'è la diminuzione delle possibilità di acquistare alcune cose non significa che uno va in povertà, che è costretto ad andare fuori dai supermercati. Ma su, uno cambia anche il regime alimentare. Sì, ma non che va davanti ai supermercati a prendere le croste di formaggio o gli scarti. Però dai, prendi su. Magari le cose di seconda scelta, prendi un altro discorso, la frutta e verdura alla chiusura dei mercati. Ma devo dirti che c'è un grande personaggio collegato con noi, credo dagli Stati Uniti, se non sbaglio, dagli Stati Uniti, il professor Edward Luttwak. Buonasera. buonasera. Uno dei miti della Zanzara. Senta, professore, come grande vede... amico della famiglia Strada, il signor Slutvac, no? Non credo che sia amico della famiglia Strada. Non credo sia amico della famiglia Strada. Senta, professor Slutvac, ma a un mese di distanza, due mesi di distanza da quando l'ultima volta che ci siamo sentiti, com'è la percezione del governo Monti negli Stati Uniti? Beh, ci sono tre cose. Sì. Primo, i numeri. Sì. I numeri sono che le obbligazioni di Stato italiano che erano vacillavano a 75, sì, diciamo, per cento del loro valore nominale, se si guardano gli anni, sì, futuri, 2037 e così via, sì, cose importanti per il mercato, certo, che erano scese da 100, hanno perso 25 punti, sì, sì, poi erano scivolate ulteriormente a 66, e adesso sono rimontate a 77, cioè questo è buono, il malato, sì, che doveva, uno che deve essere al 100%, sì, per un paese normale al 100%, perché sono obbligazioni di, sì, Stato, sceso a 75, questo è buono, terribile, poi negli ultimi giorni di crisi prima di arrivo di Monti a 66, adesso rimonta a 78, e questa è un'ottima notizia, 78, quindi è ancora malato, sì, però non è più, diciamo, è più in via di guarigione, diciamo, piuttosto che roba di essere in via per il cimitero. In via di guarigione. Professor Slutvac, un attimo solo, le altre due cose ce le dice tra poco dopo il traffico. Abbiamo un'interruzione per il traffico, poi torno subito da lei con il professor Edward Luttwak in diretta dagli Stati Uniti. Oh, disgraziato, ma che ne sta a televisione? Ma che stai a quelle del Berlusconi? Roma divina, a te sul Campidoglio, dove eterno verdeggia il sacro oro. Il fascismo li mandava a Carbonia, ma oggi non varrebbe nemmeno più la pena mandarli a Carbonia. Perché a Carbonia stavano benissimo, scavavano. Ecco. Le moderate dichiarazioni del senatore Ciarrapico. Me l'hanno i brividi anche all'ottimo. Beh, ci sono molte reazioni, già associazioni gay che si ribellano a queste cose, anche Mara Carfagna attraverso Twitter, l'ex ministro, dice i parlamentari rispettino gli omosessuali, basta battute, con riferimento a Ciarrapico. Sono problemi che non riguardano gli Stati Uniti e il professor Luttwak, che certamente queste cose della politica italiana, il professor Luttwak, che ci occupiamo ogni giorno, queste non buttate. Si occupa di gay lei, professore? Ma no, gli omosessuali negli Stati Uniti hanno tutti i diritti possibili, immaginabili, giusto professore? Dipende, dipende dagli stati. Altri argomenti sul tavolo. Dicevo su Monti, sì, la seconda, una faccia della questione Monti è, sì, che è ristorato il valore capitale e così via, ma siamo ben lungi dal traguardo. Sì, poi? La seconda cosa è la gestione dell'economia giorno per giorno, sì, che è l'austerità che è stata imposta, e qui, sì, non c'è una critica verso Mario Monti, tanto meno il governo italiano come tale, sì, ma contro tutti gli europei. Perché? Dal punto di vista americano, sì, come dal punto di vista, diciamo, di altri paesi fuori, sì, dall'Europa, non capiscono come in un tempo di rallentamento economico, sì, si vuole imponere tagli e austerità che causa matematicamente devono rallentare ancora di più l'economia, aumentare ancora di più la disoccupazione, sì, e rallentare la crescita che è già zero o meno. Professore, perché non diminuisce, quindi, la spesa questa pubblica? Questa è la cosa che nessuno capisce. Il povero Obama continua a mandare il suo segretario del tesoro in Europa a chiedere cosa stanno combinando, lo fanno tutti gli altri, lo fanno i giapponesi, i cinesi, tu, gli indiani, sì, che vuoi. La terza cosa qual è? È diventata una specie di follia collettiva che, sì, nessuno capisce fuori dall'Europa. E la terza cosa? Beh, terzo aspetto sono le liberalizzazioni. Ma deboli mi sembra, deboli. Deboli. Dove se l'Italia rimane nell'euro, sì, diciamo che non ci sarebbe un centesimo di debito pubblico, se ne va, via. Sì. Ma se rimani nell'euro senza liberalizzare, sì, non fai concorrenza, non puoi essere concorrente, certo, con, certo, la Germania, non c'è quindi il deficit eliminato si accumula di nuovo, perché non si può essere in una stessa economia con la Germania senza avere l'efficienza della Germania. Quindi il fatto che gli avvocati, ma insomma, il suo voto qual è? Tariffe, tassisti, tariffe, sta roba così non è più tollerabile. Via, via, tutto via. Senta, l'ultimo, che io non ho capito, il suo se voto. Non c'è il via, caro, i problemi ritorneranno. Ma io lo so benissimo, io sono d'accordo con lei. Ma vede, professore, qui i sindacati. I sindacati in Italia molto potenti. Devo dire, scusa Parenzo, devo dire che siamo di nuovo in diretta con TGCom 24. Come al solito c'è in diretta dagli Stati Uniti con noi il professor Edward Luttuak per i suoi giudizi sempre pungenti sulla situazione italiana. Senta, ma appunto diceva Parenzo, professor Luttuak, che i sindacati in Italia sono sempre molto potenti. Senti, caro, in Italia gli operai italiani spesso super produttivi hanno paghe basse. Okay? La paga dell'operaio italiano è bassa, quindi la forza dei sindacati è forse quella di proteggere i vecchiacci in pensione e così via, ma gli operai non li proteggono. Ma invece vedo che i vostri dirigenti, ho visto la nuova lista, come prendono centinaia di milioni di euro, salari che non esistono né in Europa né in Stati Uniti. Ah, questo è incredibile. Non esiste un capo di polizia in tutte le Stati Uniti che prende 600.000 euro, 400.000 euro o 300.000 euro. Bravo, allora oggi c'è stata, è uscita fuori la notizia. I vostri sindacati fanno molto rumore, ma evidentemente non proseguono la paga degli operai, in un paese dove tutti gli altri sono pagatissimi. Sì. Invece vedo che le associazioni dei farmacisti, degli avvocati, perfino i tassisti hanno molto potere sul mercato. Assolutamente, sul mercato, sono d'accordo al 100%. La notizia di oggi, caro Parenzo, una delle notizie di oggi che mi ha sorpreso è stata questa qua. Perché, per carità, sarà pure nella norma, però vedere per la prima volta, devo dire, che il capo della polizia, magari sarà stato lo stesso anche per gli altri capi della polizia precedenti, per De Gennaro e per altri, guadagna 612.000 euro l'anno. Ma è una cosa pazzesca. È una cosa impensabile. Non è troppo, è straordinariamente troppo, perché il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Americane, con 3 milioni di soldati e tutto quello, 2 milioni di soldati marinai e così via, lui prende qualcosa come 200.000 euro all'anno. Ma sì, ma sì, ma 600. Ma il capo dell'FBI quando prende, scusi, il capo della CIA, il capo dell'FBI FBI prende di meno, naturalmente, prendo 175.000. Ma sì, dollari, non euro, dollari. Ma è uno scandalo, diciamo la verità, è una cosa scandalosa questa cosa. È che il segretario generale del vostro tesoro, che io l'ultima volta che ho visto, Grilli, prendeva 500.000 euro all'anno. Incredibile, è anche un salario che non esiste fuori dall'Italia. Per non parlare delle pensioni, della Banca d'Italia prende 3-4 volte come il capo della Federal Reserve. Il capo della Banca d'Italia prende il salario del capo della banca del Giappone, degli Stati Uniti, della Cina messa insieme. Che cosa incredibile. Allora, intanto, e quindi i sindacati vostri sono evidentemente debolissimi, perché gli unici non pagati in Italia sono gli operai. Cioè non fanno il mestiere, non fanno il lavoro per gli operai, insomma, non lavorano per gli operai. Sono tutte balle, sono fattore politico, sono mediatici, quello che vuoi. Ma il fatto è che in Italia l'operaio italiano, anche specializzato, è il meno pagato degli altri, relativamente mal pagato, mentre i dirigenti di ogni specie sono pagati benissimo. E i vostri professionisti, il fatto che io per esempio in Italia non posso scegliermi l'avvocato, hanno tutti la stessa tariffa. Beh no, non è che no. Cos'è questa storia? Roba medievale. Senta professore, abbiamo 45 secondi, ma il lavoro va reso più flessibile in Italia, alla grande, no? Professor Luto, una conclusione? Sì, assolutamente più flessibile, perché la rigidità... Licenziamenti più facili, no? Licenziamenti più facili. Evidentemente non fa niente per l'operaio. Bene, grazie. Grazie professor Luto, anche grandissimo, dagli Stati Uniti, 20:54:10. Ci vogliono sempre queste punzecchiature, queste incursioni. Del professor Luttuak, quando ha detto difendono solo vecchiacci, sindacati, come tu lo fai bene, come ha detto, sindacati difende solo vecchiacci, difendono solo vecchiacci, l'hai tagliata pure, sentiamo un po', no vabbè, ci sentiamo domani 18:30, dobbiamo concludere con TGCom 24, domenica appuntamento 19:15, a domani. Se ti piace così,